Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ecco i 23, anzi 24, perché c'è anche la notte di riserva, convocati da Prandelli per i mondiali di Brasile 2014. Siete pronti, ragazzi? Sì. Allora, pronti? Parto, eh? Free fo! Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Rossi, Candreva, De Sciglio, Paletta, Marchisio, Verratti, Balotelli, Immobile, Insigne, Cassano, Parolo, Buffon, Pelin e Sirico, Darà, Darà, Darà, Santan, Darmian, Abate, Aquilani, Tiago Motta, Ranocchia e Cerci con Pirlo, Prandelli, chiamò, sì! Beh sì, dai, conviene prenderla sul ridere, ragazzi. Fiorello che canta sulla musica del Lino di Mameli, uno per uno, lui e i suoi soci, tutti i nostri convocati. Siete convocati anche voi, eh? Altro che 2 giugno, altro che festa. Siamo qui in diretta perché 800240024, Franco Piantanita, autore di questo programma, Claudio Schiattone in regia, Roberto in redazione, Roberto Scatrini in regia, sbaglio tutte le volte, mi voglio di cantarlo sulle strofe del Lino di Mameli. Comunque, è stato ieri il giorno delle scelte, il giorno in cui si è fatta l'Italia. Oggi è quello dei commenti. Speriamo che non arrivi il giorno, anche il giorno dei rimpianti, come quello di Marcello Lippi. Non so se abbiamo le parole dell'altro giorno di Marcello Lippi, quando ha visitato il ritiro della Nazionale. Tifo per tutti, per lui in maniera particolare, perché gli ho appena ricordato che è stata l'unica volta che mi sono pentito di qualche cosa, per la sua classe, per la sua bravura, per la sua genialità. Riferito naturalmente a Giuseppe Rossi, escluso dai mondiali precedenti per scelta tecnica da parte dell'allora CT Marcello Lippi. L'unico rimpianto che ho avuto nella mia carriera da commissario tecnico è stata l'esclusione di Giuseppe Rossi. Speriamo che non arrivi un giorno più o meno lontano in cui Prandelli dirà le stesse cose. Io ho paura dei contrasti, mi fa ridere. Tutti dicono sono fuori forma? Chiedete a chiunque e guardate i test. Arrivo col pensiero prima del difensore? La prossima volta, da dilettante, aspetterò il difensore per prendere i calci. Ci tenevo, adesso la cosa più... Ci tenevo a dire queste cose. Adesso la più importante è tifare Italia, forza azzurri. Questo è il giorno anche dei tweet. Questo tweet lo ha scritto Giuseppe Rossi, che teneva a precisare alcune cose. Dunque, paura dei contrasti mi fa ridere. Arrivo col pensiero prima degli altri, quindi è inutile che vada a prendere calci come i dilettanti. Magari la prossima volta lo farò. Non trovate un'altra scusa se è buona, eccetera, eccetera, eccetera. È il giorno dei tweet anche per Mattia Destro, perché... qualcuno ha detto che Destro avrebbe rifiutato il ruolo di 25esimo, il ruolo di riserva che Ranocchia ha accettato e andrà in Brasile ai margini del gruppo. Ebbene, Destro ha detto che lui non ha mai rifiutato proprio nulla, cioè non mi sono chiamato fuori, non ho rifiutato alcun tipo di ruolo all'interno di questa nazionale, dunque mi hanno escluso e sto a casa. Ci sono tanti modi di leggere, secondo me, le scelte di Prandelli. Ce n'è qualcuno carino, interessante. Possiamo immaginare un blocco Juventus. Immaginare, esiste un blocco Juventus. Abbiamo 3 giocatori del Torino, 3 del Parma, 3 del Paris Saint-Germain e sotto insieme 4 del Pescara di Zeman. Insigne, Immobile, Perin e Verratti. Intanto, in linea, abbiamo... forse quello che conosce Giuseppe Rossi meglio di tutti, l'ha riportato in Italia, è nostro amico Federico Pastorello, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, ciao. I radioascoltatori. Ciao Federico. Beh, mi sembra che questo tweet quasi non si presti neanche a commenti, quello di Giuseppe Rossi. Ha fatto benissimo a sgombrare il campo da ogni tipo di equivoco. Poi ti dico come la penso io, intanto dimmi quello che pensi tu. Ma guarda, il mio pensiero ovviamente... è mio e chiaramente me ne assumo le responsabilità. Diciamo che immaginarsi un'Italia senza Giuseppe sì, quantomeno mi fa strano, anche perché credo che sia uno dei pochi giocatori, chiaramente con tutto il grandissimo rispetto che ho per gli altri giocatori della nazionale, però sia uno di quei giocatori che possa effettivamente essere in grado di fare la differenza, magari anche in partite di difficoltà. Sono giocatori di grande talento che possono risolvere le partite con giocate singole. Quindi sinceramente, tenendo conto anche, forse sono anche influenzato da avendo vissuto, insomma, i sacrifici che ha fatto Beppe per esserci, quindi le difficoltà che ha incontrato, diciamo, ecco, la delusione è tantissima, e credo che si lega anche proprio dal tweet che effettivamente ha fatto questa mattina Giuseppe. Beh, ha fatto bene Giuseppe a sgombrare il campo da ogni equivoco, non diciamo sciocchezze, no? Perché diciamo che io credo che sia fosse giusto comunque chiarire il fatto che credo che sia stata una decisione tecnica, non fisica, nel senso che anche lui mi ha detto nei test assolutamente sempre tra i primi, avendo poi giocato anche meno, era anche forse più riposato, quindi non lo so, però il CT è Prandelli, e certo, rispettare le sue scelte, e ovviamente ti pare sempre Italia, ci mancherebbe altro. Quindi tu dici scelta tecnica quella dell'esclusione di Giuseppe Rossi, non possiamo chiamare una scelta dettata da motivi fisici, scelta tecnica che va a fare il paio con quella di Lippi di 4 anni fa, cioè siamo sullo stesso livello? Io penso di sì, nel senso che cioè, nel senso che fisicamente è un giocatore che magari può essere, sì, può essere non al 100%, però voglio dire, credo che per caratteristiche sia un giocatore che possa entrare in forma molto più velocemente di altri, ha lavorato veramente sodo, e comunque il suo rientro in campionato mi sembra che parli da solo, con 3 partite, 2 gol, un mezzo gol, perché sì, è un miracolo, e un assist stupendo per Quadrado, quindi io credo che più di così non potesse fare. Magari si è anche pentito di aver forzato i tempi del recupero, no Federico? Per aver forzato i tempi di recupero, per il collaterale non è uno scherzo, e lo sappiamo. Magari si è anche pentito in questo momento di aver forzato i tempi di recupero. Ma no, io credo che lui abbia fatto tutto quello che era giusto fare, sicuramente qualcosina di più, però visti i 2 precedenti infortuni, io credo che abbia fatto tutte le cose al meglio per recuperare come si doveva. Dopo, chiaro, probabilmente ha forzato un po', perché c'era la Coppa del Mondo, quindi su questo non c'è ombra di dubbio, però devo dire che anch'io personalmente, una volta portato tra i 30, lasciarlo a casa è veramente stata una delusione incredibile, da tifoso sì, oltre che da amico di Giuseppe. Sì, però guarda, tu hai detto come la pensi tu, ora ti dico come la penso io. La mia sensazione, essendo qui tutti i giorni, avendo seguito passo per passo la nascita di questa nazionale, avendo sentito ogni tipo di dichiarazione, allora la mia sensazione, ma non l'ho già detto altre volte, ed è per questo che l'esclusione di Giuseppe Rossi alla fine non mi stupisce più di tanto, perché ho la sensazione che non ci sia mai stata grande fiducia intorno a lui. Io ricordo le prime parole di Prandelli: per lui è già una vittoria essere qui tra i 30. E vabbè, prime parole di Castellacci: sì, Cassano in forma scintillante. Beh, Giuseppe Rossi sta abbastanza bene, riesce a lavorare con il gruppo, eccetera, eccetera. Ora, alla luce di tutto questo, io sinceramente non riesco a credere che sia stata una partita di un sabato sera a Craven Cottage contro l'Irlanda, in cui si è stato operato l'infortunio di Montolivo, a determinare in maniera decisiva la scelta di Prandelli. Questo è il mio pensiero. Beh, guarda, io lo spero, perché se è stata effettivamente questa lo strumento utilizzato, sì, per capire, se forse è ancora peggio. Però diciamo che le sensazioni, è vero, non erano mai state positive, però parlando con il ragazzo, insomma, mi sembrava invece ottimista, nel senso che, insomma, probabilmente si vedeva anche bene. Poi Giuseppe è un ragazzo che credo che sia dotato di una obiettività fuori dal comune, ed è un ragazzo di un'umiltà assoluta, quindi nel momento in cui lui era sereno ed è stato così colpito da questa esclusione, secondo me, insomma, non lo so se la tua analisi è poi così giusta, ecco, perché invece secondo me, siccome è stata una partita molto strana, sì, nel quale lui probabilmente si è preoccupato a giocare come si deve giocare un amichevole, forse chiaro, online chiaro. L'ha visto come un test, è per quello che ti dico che non può essere stata quella partita ad aver indotto Brandelli a scegliere dentro o fuori, no? Io lo spero anch'io, perché altrimenti sarebbe stato, cioè, se fosse così sarebbe veramente ancora più brutto, insomma, ecco, perché tenendo conto che il mister conosce Giuseppe molto bene, sa quello che gli può dare, sicuramente, cioè, lo spero anch'io, anche se non ne sono così convinto, lo spero da un lato, capito. Ma non ne sono così convinto. Però, un'ultima cosa, Federico, ti chiedo ancora questo, alla luce di questa delusione forte, di questo tweet molto deciso, molto netto, il rapporto futuro di Giuseppe Rossi con la nazionale esisterà ancora o ci saranno dei problemi? No, ma no, ci mancherebbe altro. Io credo che Giuseppe, visto anche l'età, l'attaccamento comunque alla nazione, all'Italia, anche se lui ha girato molto, ma insomma lui sente il suo paese come l'Italia, quindi non credo che ci saranno problemi, e credo anche poi che mister Prandelli possa capire lo sfogo di un ragazzo che a maggior ragione rispetto agli altri ha così tanto faticato per provare ad esserci. In più, ripeto, negli ultimi 2-3 anni Giuseppe credo che abbia avuto più amarezze, delusioni, grande sofferenze che gioie, quindi da questo punto di vista un po' di amarezza in più rispetto al normale credo che anche il mister Prandelli se la possa aspettare, quindi non vedo problemi, anche perché non ci sono grosse polemiche, no, ma poi ed è innegabile. Federico, il parlare chiaro è sempre la migliore qualità in assoluto, no? Perché sarebbe stato molto peggio questo avesse detto: no, non c'è problema, sono felice come una Pasqua, sto a casa dai mondiali e mi curo. Nessuno gli avrebbe creduto. No, dire le cose come stanno mi sembra la cosa migliore, sempre. Lui è fatto così, lo si prende, gli si vuol bene, non gli si vuol male, ma lui è fatto così, ha una faccia sola. Ce lo saluti? Non c'è dubbio. Certo, assolutamente, con grande piacere. Piacere. Grazie Federico, grazie Federico Pastorello. Oggi è anche il giorno delle vostre opinioni, naturalmente. 800 24 00 24, vi do qualche altro spunto di riflessione. Allora, noi lasciamo a casa Giuseppe Rossi. Allora, per inciso, per me è un errore, io me lo sarei portato. Anche su Biodice, anche con la prospettiva di vederlo crescere di partita in partita, anche rischiando qualche cosa, anche correndo questo tipo di, appunto, di rischio, perché il mondiale è una competizione che si vince con i giocatori di talento, e meno male che, non so se e quanto in questo abbia pesato l'infortunio del povero Montolivo, sfiga totale, mai vista una così grande prima, perdi un mondiale e perdi anche 6 mesi di carriera, l'hanno operato oggi, hanno detto ci vorranno 6 mesi prima di rivederlo in campo. Non so quanto questo abbia indotto, determinato la decisione di Prandelli a chiamare Verratti, il cui ruolo rischia, in accezione positiva naturalmente, di essere estremamente importante in questa nazionale. Allora, la Spagna si porta Diego Costa, che ha i muscoli a pezzi, lascia a casa Llorente. La Colombia si porta Falcao, che è reduce da un infortunio ben più serio rispetto a quello di Giuseppe Rossi, a questo secondo di Giuseppe Rossi. L'Uruguay a Suarez non ci pensa neanche a lasciare a casa Suarez, che l'altro ieri è stato operato di menisco, 3 giorni fa è stato operato di menisco. La Francia a Ribéry con la lombalgia cronica. Questi sono solo i nomi più importanti, le stelle annunciate di questo mondiale, che vanno con le stampelle in Brasile. Noi invece Giuseppe Rossi lo lasciamo a casa. C'è poi un altro punto, un altro aspetto. Allora, Romulo è rimasto a casa perché l'ha chiesto lui, ha detto molto onestamente, e anche in questo caso è da apprezzare: mister, io sono al 70% della condizione, inutile che porti me e lasci a casa uno che sta bene. Quindi, a quanto si sa, la scelta di escludere il giocatore del Verona, altro giocatore che secondo me sarebbe stato importantissimo, ha questa genesi. Poi ho un'altra impressione che voglio sempre condividere con chi ci ascolta il 2 giugno in diretta, e può intervenire 800 24 00 24. Mi sembra che le scelte di Prandelli sottintendano anche gerarchie molto chiare, ok? Una specie in attacco: Balotelli, Cassano, coppia titolare; Immobile, Cerci, primi cambi; Insigne, potete definirlo giocatore tattico o turista designato. Questa è la mia sensazione. È chiaro che Rossi, che Giuseppe Rossi, anche con tutti i suoi problemi fisici, avrebbe avuto per Prandelli maggiori difficoltà di gestione davanti all'opinione pubblica. Perché allora Rossi gioca, non gioca, come sta? Perché non lo metti? Perché l'hai tolto? È chiaro che questo tormentone ce lo saremmo portati avanti per tutto il mondiale. E Prandelli ha preferito andare su altre linee. Tutti convocati. L'aspetto tecnico è giusto che parliate con i professionisti che hanno operato Riccardo. Io posso dire da papà che sono contento di come le cose sono andate. Come le ha visto? Intanto nell'attesa, visto che è stato anche lei in sala operatoria. Sì, sono stato in sala operatoria, ma soltanto per star vicino a Riccardo. Il risveglio com'è stato? Brillante, sereno, sorriso. Ha detto qualcosa? Mi ha chiesto com'è andata, ha detto in maniera eccellente. È stato più sereno anche lui dopo quelle sue parole? Bah, lui è un positivo, per cui aveva grande fiducia nei professionisti che l'hanno operato, quindi tutto bene. Quanto resterà qua in clinica adesso? Qualche giorno, credo, qualche giorno. C'è la speranza di vederlo in campo entro 5 mesi, 4-5? Penso di no. Almeno 6? Vediamo, i tempi sono biologici, sono quelli, non è che... Adesso vediamo. Vi aspettavate? Sì, tutto perfetto, tutto... Nessun chiodo nella TV? Nessun chiodo. Queste sono le parole del dottor Marcello Montolivo, papà di Riccardo, che ha assistito all'intervento e che ha spiegato, come avete sentito per filo e per segno, come questo intervento sia andato. Beh, certo, 6 mesi non sono uno scherzo, ma questo si era già capito. 800 24 00 24 è il numero verde. Cara Maria, parlo di Destro, ho già parlato, lo faremo, e anche Destro è un caso in questa nazionale. Io me lo sarei portato insieme a Giuseppe Rossi. Destro e Giuseppe Rossi, tutte e due insieme, magari trasferendo Cerci nella casella dei centrocampisti, cosa che si era anche ipotizzata. Vabbè, sentiamo voi. Stefano, buongiorno. Sì, dottore, buongiorno, la ringrazio di avermi convocato. Grazie a lei. A proposito, guardi, ricordo le magliette, il migliore in campo ogni giorno, una maglietta di tutti i convocati, griffatissima, dica. Io intervengo non per tanto per la questione di Giuseppe Rossi, che a me non mi è mai piaciuto sinceramente, più che altro per Stefano Esciaraui. Nessuno ne ha parlato. Io ho visto la penultima partita e mi è a Bergamo, l'ho visto anch'io, anche a me, ma è fuori da 2 anni Stefano, è fuori da 1 anno e mezzo. Questo è vero, però Giuseppe Rossi ha avuto una gamba rotta fino a poco tempo fa, quindi non mi è piaciuto neanche contro il Torino, non mi è piaciuto neanche contro l'Irlanda, non mi sembra così in forma come tutti dicono e come ha detto Giuseppe Rossi nell'intervento lì su Twitter. No, ho capito, però va bene, però Stefano, sa quanti gol ha fatto Giuseppe Rossi in questo campionato? Come? Quanti gol ha fatto Giuseppe Rossi in questo campionato, non in quello dell'anno scorso? 15. E Sharawi quanti ne ha fatti in questo campionato? Quante partite ha giocato? Al di là di quella spruzzata di energia che ha certamente messo in campo contro l'Atalanta al rientro, però francamente a me sembra a me sarebbe sembrato folle convocare un giocatore che ha stabilmente problemi fisici da più di un anno. È appena rientrato, certamente è stato un peccato perderlo. Io non dimentico i giorni, perché ho la memoria lunga su questo, i giorni in cui Esciaraui segnava con la Raffica, Balotelli era appena arrivato al Milan, entrambi stavano portando il Milan in rimonta l'anno scorso, e 216 minuti mi segnala Franco Piantenita dalla redazione, 216 minuti di campo quest'anno per Esciaraui. Ma signori, ma chi porterebbe a un campionato del mondo, con tutto con tutta l'ammirazione che posso avere per Esciaraui, giocatore che a me piace moltissimo per quello che era, per quello che ci ricordiamo, e ormai sono ricordi abbastanza lontani, 216 minuti di gioco e portiamo un giocatore ai mondiali, magari lasciamo a casa Giuseppe Rossi? A me questa sembra veramente, al di là del tifo, molto oltre il tifo, una specie di follia. Quindi purtroppo Esciaraui non ce l'abbiamo. Stavo dicendo, ricordo i giorni in cui dicevamo Balotelli e Esciaraui, la coppia più bella del mondo, il futuro della nostra nazionale, loro ai mondiali, eccetera eccetera, molta acqua è passata sotto i ponti. Balotelli è ancora lì, sebbene non stia benissimo, sebbene sia un po' da scoprire, da verificare. Però ragazzi, Esciaraui 216 minuti, va bene. Luciano da Genova, anche lei Esciaraui? Buongiorno, no, io torno su Giuseppe Rossi. Sì. Volevo dire questo, se è vero che l'ultima, come prima cosa, se è vero che la partita con l'Irlanda non era così determinante,

crescere sia come giocatore che come persona. Io sono felice di essere, di far parte della nazionale. Mi alleno come se dovessi giocare, è vero, però questo non significa di essere dispiaciuto, no, uno deve essere sempre a disposizione del mister e continuerò a dare quello che sono abituato a dare alla nazionale senza alcun problema. Ci siamo ragazzi. Capitolo portieri dunque, vabbè, qui nessuna sorpresa, Buffon, Sirigu, Perin, 1, 2 e 3, non c'erano dubbi, non ci sono dubbi, e questi nomi sono stati scritti da Prandelli sulla lista. Giorno delle opinioni, io voglio sentire anche quella di Franco Piantanida. Buongiorno, ciao. Sono tornato dal ritiro premondiale. Sì. Naturalmente, hai rischiato il taglio anche tu, come Giuseppe Rossi, ma adesso sei qui, allora. Sono stato nella casetta Rossi, di Coverciano. Sì, io Rossi no. Rossi sì o Rossi no. Ma sai che è difficile, perché ci ho pensato a lungo. Io non lo so, è una scelta veramente difficile. Io qualcuno deve pur scegliere, eh. No, io l'avrei portato. Sì. Sinceramente l'avrei portato. Non vorrei che Prandelli avesse avuto paura dopo la partita di sabato sera, l'infortunio a Montolivo, i dubbi sulla condizione di Aquilani, gli acciacchi di Romulo che hanno portato poi alla sua auto fuori. Esatto. E quindi ha detto: io cosa faccio? Porto Rossi, rischio ancora, rimango solo con quattro attaccanti. Però è un rischio pesante questo, eh? Secondo me non capisci di calcio. Sì, probabilmente è vero, e infatti non faccio il CT della nazionale. Ascolta, qualcuno ha detto che la nostra nazionale è una nazionale di nanetti, è vero? Sì, infatti a vederli uno pensa subito a Cassano, Insigne, sì. Diciamo che non abbiamo una contraerea esagerata, però stamattina, giusto così per divertirmi, sono andato a vedere le altezze dei nostri cinque attaccanti. Vabbè, Balotelli è sicuramente è la torre, anche se il colpo di testa non è che è la sua qualità arma in migliore. Cui eccelle, esatto, però 189 cm, quasi 1,90 m. Poi abbiamo Immobile, che sembra un torello, però è 1,85 m, quindi insomma sa farsi valere, e lui insomma qualche gol di testa quest'anno l'ha segnato. Poi c'è Cerci, 1,80 m, e poi invece vabbè Cassano 1,75 m e Insigne 1,63 alla Maradona, dai. Come ho detto prima, a parte il fatto che non siamo molto forti di testa, e questo è un punto che sarebbe andato a favore di Destro, che è comunque un centravanti tosto, atletico e bravo in acrobazia, diciamo così. Quindi io sia Giuseppe Rossi che Destro me li sarei portati. Però Prandelli ama le gerarchie, e anche nelle precedenti spedizioni, nella precedente esperienza, quella degli europei, lui preferisce portarsi dei giocatori che non rompono le scatole, dai quali non ha rotture di scatole, né dai punti di vista dei rapporti interpersonali, né dal punto di vista delle chiacchiere in conferenza stampa, e dunque Insigne, che non ha giocato una grande stagione. In tutta onestà, non possiamo dire che Lorenzo Insigne, che è un giocatore che a me pure piace molto, abbia giocato una grande stagione. Mi sembra 3 gol in campionato, correggimi se sbaglio. Sì, no, esatto. 3 gol in campionato, va bene la doppietta in finale di Coppa Italia, va bene che ha avuto, e in questo momento sta molto bene fisicamente, ha avuto un finale di stagione in crescendo. Però sono due gli highlights della stagione di Insigne. Uno a settembre, la punizione col Dortmund, bravo, la finale di Coppa Italia, in mezzo. In mezzo 51 partite, che non sono poche, a correre come un cammello sulla fascia del Napoli di Benitez, però ai mondiali c'è bisogno di altro, secondo me c'è bisogno di qualità, oltre a questo c'è bisogno anche di giocatori tattici, di giocatori che possano permettere delle soluzioni tattiche, e secondo me oltre a Rossi anche Destro è un giocatore che può permetterti soluzioni tattiche differenti. Beh, Insigne andrà in Brasile, grosso modo, secondo me, a fare il turista, sarei sorpreso del contrario. Siamo un po', secondo me, davanti, mi ultimi test, siamo un po' poco sporchi, non so come dire, cioè al mondiale serve qualcuno che in area di rigore giochi un po' sporco, che sappia giocare nell'area piccola, che sappia andare di fisico, che faccia gol brutti ma pesanti. Ecco, i nostri attaccanti sono belli, sono tecnici, siamo veloci, siamo agili e tutto, però serve un po' di lavoraccio, e questo è la nostra unica prima punta, che è Balotelli, insomma, fa un po' fatica a farlo, eh. Werner Torino, Giacomo Bologna, Antonio da Napoli, 800 24 00 24. Vado al contrario, Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a lei. A proposito di quanto diceva lei poc'anzi, Insigne andrà a fare il turista al mondiale, io voglio dare un consiglio spassionato a Lorenzo, proprio come se fosse mio fratello, visto che sono napoletano, gli dico: caro Lorenzo, spegni i social, non ascoltare la radio, spegni la TV, non leggere i giornali, al limite proprio se hai la passione per la lettura, leggi un bel romanzo, non so, qui tutto da dire. Memorie del sottosuolo, un bel romanzo, ma non accendi solo una cosa, il tuo talento, il tuo cuore, e vedi che questo qui sarà il tuo mondiale. Forza Lorenzo Insigne, forza Italia. Grazie Antonio. Clima mondiale, eh? Beh, ma bellissimo, anche perché oggi è il giorno in cui parlano i tifosi, no? Quindi sì. È bellissimo, fa decisamente bene Antonio a dire queste cose, a dare questi consigli a Insigne, che può spegnere la TV, non legge i giornali, ma la radio la deve ascoltare. Vorrei sapere che libri si è portato in valigia il signorissimo. Gli ha consigliati Aru, ma oggi è ovvio che prevalgono anche gli interessi di partito, no? Sulla nazionale. Io ho un sacco di messaggi. Beh, oggi i romanisti furiosi, perché, le vedevo sui social. È normale. Prima fuori Florenzi. Totti, adesso destro, gli fanno fuori destro, e poi qualcuno parla di convocazioni politiche, qui io leggo e riporto i tweet da Roma. Convocazioni politiche, siete d'accordo? 800240024, è ovvio che oggi si ragiona con il cuore e con gli interessi di partito, però molti evocano anche quelli che non ci sono, Tony, qualcuno addirittura di Natale, insomma, ognuno ha le sue opinioni ed è giusto ed è sacrosanto che se le tenga, mi piacerebbe ascoltarle. Giacomo Bologna, buongiorno. Buongiorno. Gilardino anche, Gilardino. Rolando Bianchi, Giacomo. Rolando Bianchi. No, perché Rolando Bianchi, sì, se dovevamo uscire alla fase a gironi potevamo prenderlo tranquillamente e tornare a casa, no? Un po' di spending review sui mondiali. E, no, il discorso è questo, è che secondo me Prandelli, che è una bravissima persona, è una persona sicuramente affidabile, però ha un pochettino il vizietto, appunto, di non portare quei giocatori, come ti ho detto prima, anche un pochettino smaliziati. Ora, io non sono un grandissimo fan di destro, nel senso che non è uno che mi fa impazzire, però devo dire che, data la giovane età, l'ho già visto inserirsi in un contesto come la Roma e fare anche magari delle mosse contro difensori che sicuramente sono sanzionabili, però dimostrano anche che magari una partita di mondiale dove nessuno vede e serve qualcuno che in area faccia il lavoro sporco, lo può andare a fare. Sa come la chiamano a Napoli e dintorni questa qualità? Come? Cazzimma. Sì, maliziati che siamo, deve essere una buona traduzione. Detto ciò, il capitolo Giuseppe Rossi, secondo me, non è, onestamente, non è comprensibile a fronte di un Cassano che avrà sicuramente giocato col Parma, che però il Parma è un po', non dico come giocare, cioè molti giocatori che hanno fallito in squadre importanti come ha fatto lui con Milan e Inter negli ultimi anni, poi vanno nella squadra piccola, la squadra gioca un po' per loro e riescono a fare. Ora, tra un Rossi che comunque, se scende in campo, sputa sangue e fa tutto quanto quello che deve fare, e un Cassano che, se non è in giornata o non si trova col suo compagno di squadra o qualcosa del genere, diciamo che proprio il sangue non lo sputa, io rischio più su Rossi. Sì, no, io rischierei su tutti e due, Giacomo, perché Cassano, questo è, mi sembra un po' il suo anno, è chiaramente suo ultimo mondiale, è chiaramente non è all'apice della carriera perché quello è già passato, però è la sua ultima chance, la sua ultima occasione, se l'è cercata nel modo migliore possibile, con grande serietà, conoscendo il personaggio Cassano, arriva in eccellenti condizioni fisiche. Certamente gli è stato detto: oh, vieni qui, non rompere scatole, perché già qualche senatore non ti voleva, ti abbiamo richiamato, abbiamo reintegrato nel gruppo, fa il bravo, giochi quanto devi giocare, fai la tua parte e poi vediamo. Mi sembra che insomma, se devo scommettere qualcosa, non è ancora tempo di scommesse, però se dovessi azzardare una puntata su una possibile stella italiana, io un euro su Cassano ce lo metterei, forse due. No, ma assolutamente, velocissimo, poi abbiamo il traffico. Traffico, sì. Cassano, conferenza stampa di presentazione a Parma, riascoltavo stamattina le sue parole famosissime: quante possibilità hai di andare al mondiale? 0,0%. Lui è partito da lì e oggi è al mondiale. Sì, sì. Io un euro su Cassano lo metto. Ma è al mondiale perché se l'è guadagnato tutto quanto, e ripeto, se l'è guadagnato tutto quanto sul campo, e ha giocato una grande stagione, ma anche dal punto di vista degli atteggiamenti. Ha vissuto una stagione di estrema serietà, quindi secondo me è giustissimo portarlo. Tutti convocati. queste competizioni con partite così ravvicinate credo che sia semplicemente la verità, e quindi tutti bisogna si devono allenare al 100% e farsi trovare pronti. Grande merito va dal CT, è lui che ha fatto le convocazioni, è lui che ha riportato i giovani in nazionale, è lui che ha riportato uno spirito dell'Italia. Stiamo provando diversi moduli proprio perché dobbiamo essere una squadra capace ad adattarsi anche agli avversari. Pensi arriva naturalmente al Brasile, è un'avventura che aspettiamo sicuramente da 4 anni, abbiamo fatto un percorso importante e c'è tanta voglia di proseguire il nostro tempo positivo e anche cercare di cancellare un po' tutti i ricordi perché è stato in Sudafrica. A inizio anno penso nessuno ci pensava, io ho lavorato, ho cercato di migliorare giorno dopo giorno ed è arrivata la convocazione e sono orgoglioso. Mi trovo bene su entrambe le fasce e ripeto, io sono sempre a disposizione del mister, quindi qualsiasi posizione mi faccia giocare io cerco sempre di dare il massimo. Sì, sono il mio bisnonno di Catanzaro e allora niente, per quello che c'è la doppia passaporto della prima. Queste le voci dei nostri difensori Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, che si è guardato sul campo la convocazione, De Sciglio, Paletta, fuori Maggio, Prandelli, come abbiamo visto quelli che hanno avuto problemi fisici negli ultimi 6 mesi non li ha chiamati. Enzo Bucchioni, direttore di QS, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. La tua idea, la tua opinione, la tua valutazione. I fatti sono noti, è il giorno dell'opinione, dicevamo, speriamo non sia quello dei rimpianti dopodomani, come è stato per Lippi, no? Sì, speriamo, perché siamo tutti qui a tifare Italia, anche fra le polemiche come al solito, poi speriamo di ricompattarci quando rimbalzerà il pallone, come si dice. Qualche dubbio c'è qualche dubbio soprattutto sulla mancata convocazione di Rossi, è inutile girare intorno a questo problema, perché le condizioni di Rossi erano note già 15 giorni fa, se tu lo chiami, lo fai giocare anche nell'amichevole di sabato per poi scoprire che tira indietro la gamba, cioè non è secondo me una cosa giusta, non voglio dire seria, perché Rossi ha un modo di giocare che la gamba la tira indietro sempre, perché è talmente più rapido degli altri, cosa deve aspettare che gli arrivi addosso? Senti Enzo, ha la sensazione questa amichevole e questa motivazione sia pretestuosa? Ma sì, perché ci vuole un po' di coraggio a portare certi giocatori. Questa è una nazionale troppo classica, cioè troppo, passatemi il termine, banale. Cioè tutto il compitino fatto per Benino senza un guizzo, senza un qualcosa. Cioè io come Rossi lo porto sempre, perché è l'unico fuoriclasse, tra l'altro, che ha collegato sempre la testa con i piedi, perché Balotelli non sempre riesce a fare questo collegamento. Quindi è l'unico fuoriclasse, ma lo porto, perché nei mondiali storicamente ci sono anche giocatori che non giocano mai neanche un minuto. Se ne vuoi portare uno così, che se magari cresce strada facendo, se magari butti dentro per un quarto d'ora alla fine ti può risolvere una partita? E invece no, siamo andati a vedere tutte le tabelle, tutti i preparatori atletici, il computer, cosa mi dicono le app, cosa mi dice questo, e alla fine senza cuore, senza coraggio, abbiamo preso gli 11 ipotetici, poi 23. Il problema, sai cosa, che Insigne, nessuno che pianterà dei casini a Prandelli se la c'era fuori Insigne grosso modo andrà in Brasile a fare il turista, questa è la mia impressione, e mentre su Giuseppe Rossi ci sarebbe stato un battage mediatico differente. Altra mia sensazione, l'ho detta prima, è che la decisione è stata presa prima di questo raduno dei 30, cioè non ho mai sentito parole entusiastiche in questi 10 giorni a proposito del giocatore della Fiorentina. Werner da Torino, sentiamo un ascoltatore alla replica di Enzo Bucchioni, poi ci fermiamo. Werner, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Allora, sono un po' preoccupato per la difesa, nel senso che, premetto che sono tifoso juventino, vessato e perculato continuamente da un suocero e una moglie torinista, i quali probabilmente mi hanno fatto venire anche qualche dubbio effettivamente sulla efficacia della difesa basata sul blocco della Juventus, specialmente visto come sabato, che hanno difeso, mi sembra, in 3, che è abbastanza male, perché insomma l'Irlanda, per quanto fosse una squadra mediocre, insomma ci ha creato non pochi problemi in difesa. E quindi mi chiedo un po' come la vedete voi, anche per l'età e la stanchezza e la spremitura di alcuni elementi, specie appunto quelli del blocco juventino. Enzo? Beh, questi sono alcuni dei dubbi che ci accompagneranno, perché sicuramente Barzagli ha fatto una stagione tribolata, c'era già quando abbiamo vinto il mondiale 8 anni fa, quindi non è più un ragazzino. La difesa potrebbe essere però anche uno dei punti di forza, perché i tre juventini hanno dimostrato di costituire veramente un reparto quando giocano tutti e tre. E il problema è che qui ne vogliamo far giocare due soli, questa è un'altra contraddizione, perché è vero che qualche prova della difesa 3 c'è stata, però in genere l'Italia gioca a 4 e quindi non costituisce il nucleo fondamentale della Juve. Qualche dubbio ce l'ho su Barzagli, ma ce l'ho anche su Pirlo, non è stata una stagione straordinaria neanche per Pirlo, soprattutto nel finale, e sono giocatori che hanno la loro età, con questa la carta d'identità non si ragiona mai bene. Speriamo che però l'esperienza prevalga. Cosa dire, altri giocatori sono avanti con gli anni. Questa è una nazionale che ha un po' di contraddizione, però al di là di Rossi, la verità è una: il calcio italiano in questo momento offre questi 23. Io credo che, a parte Rossi, ripeto, che è un caso a sé, abbia portato in Brasile quelli che sono i più forti. Grazie Enzo, ci sentiamo grazie presto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie, ciao. Enzo Buchioni, direttore di QS. Vabbè, Pirlo per la stagione di Pirlo però è stata straordinaria. Forse non dal punto di vista del portafoglio, visto che dovrà cacciare alla moglie 50.000 euro al mese in assegni. 55 mi pare. Scusa. Siamo precisi con i numeri. Scusa. 55.000 euro al mese da qui all'eternità. Oggi ho letto questo titolo meraviglioso, anche un po' trash, su Repubblica. La nazionale allargata di oriundi e divorziati. Non ho letto ancora il pezzo della straordinaria Emanuele Audisio, ma giuro. Cacci i sordi! Anch'io dico al Totena, ma cacci i sordi! Dovrebbe dirlo a Pirlo. Bisogna dirlo a Pirlo. Quote e pronostici. Questa sera scende in campo la Serie A di basket. Al Palestra di Siena c'è gara 2 per le semifinali playoff. In campo i padroni di casa di Siena contro Roma. E allora vediamo le quote SNAI relative a questa partita. L'1, la vittoria di Siena è quotata 1,90, l'X è a 2,80. Il successo di Roma sul campo di Siena è quotato 4,75. Con il mese di giugno scattano però anche i mondiali di calcio, che cominceranno ufficialmente giovedì 12 con la gara d'esordio tra il Brasile e la Croazia. È possibile però già da adesso indovinare il percorso delle 32 squadre impegnate nella Coppa del Mondo. Tra le favorite c'è certamente l'Argentina, inserita nel gruppo F assieme a Iran, Nigeria e Bosnia. E allora vediamo le quote SNAI relative all'Albi Celeste. Il passaggio agli ottavi per l'Argentina è quasi scontato ed è quotato 1,03. L'Argentina ai quarti è quotata 1,33, sudamericani semifinalisti quotati 1,90, mentre l'Argentina finalista nel mondiale in terra brasiliana è quotata 3. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Una maglia importante quella della nazionale, quindi una maglia che pesa, una maglietta, ripeto, importante. Io la colloco tra le squadre che possono vincere il mondiale, tra le squadre che possono arrivare fino in fondo. Faccio parte dell'Italia, della nazionale italiana di calcio. In questi periodi premondiale dobbiamo guardare ad altre cose, non solo l'aspetto fisico, ma anche come sta la squadra in campo. Stavo sperando, sì, perché quando vengo in nazionale sono felice, sto bene. È stata un'emozione bellissima aver visto il mio nome tra i convocati, e insomma sono strafelice e sono veramente contento. Continuo a giocare, ho ancora sogni da realizzare e cercare magari di vincere un altro mondiale. Sono veramente contento di stare qui e cercare di dimostrare al mister che vado a scelta giusta con voi. Alla fine, le voci attaccanti Balotelli, Cassano, Cerci, Immobile, centrocampisti. Sono anche i mondiali. Aquilani, Candreva, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo, Pirlo. It's a kind of magic, perché Pardo è in Brasile, e Verratti naturalmente, Pardo è in Brasile e si sente meglio che mai. Ciao. Infatti Pirlo, sono altamente deluso, signor Pardo. Ciao. Attento, signor Pardo. Tu? Bene, tutto a posto. ottimismo, entusiasmo. So di molte polemiche, ho letto i giornali, qui sono le 10 di mattina. C'è una voce da sonno che te la racconta. No, che voce da sonno? È che per la prima volta senti la mia vera voce con un telefono normale, no? E quindi, è vero. Quindi non c'è quell'effetto di... Mi sembra di stare in paradiso, capito, questa cosa qui non c'è questo effetto, e quindi no, va bene. Senti, non ci siamo ancora sentiti da quando sei arrivato, ero un po' preoccupato per te. Raccontami il viaggio, dimmi dove sei, geolocalizzati, albergo tutto bene, valigia fatta, tutto a posto, 50 minuti, quindi grande adrenalina e panico su possibile perdita di valigia, ma invece tutto a posto, grande professionalità, grande entusiasmo, e siamo atterrati stamattina alle 5, ora locale, che sono le 10 italiane, ci sono 5 ore di fuso da tutto il Brasile, tranne che da Manaus c'è un'ora in più, quindi quando l'Italia giocherà proprio alle 18, e la prima partita sarà a mezzanotte, ora italiana, del 14, della notte fra il 14 e il 15, e poi invece le altre due partite si giocheranno con 5 ore di fuso, perché tutto il resto del Brasile sono 5 ore di fuso. Ho letto i giornali brasiliani, c'è uno Scolari arrabbiatissimo perché ieri l'hanno fatto arrabbiare i titolari provati nell'allenamento, e quindi c'è una grande enfasi. Poi c'è Gilma, la presidente del Brasile, che ha inaugurato ieri alcune opere, ma insomma ci sono grandi polemiche e probabilmente seguiranno anche scontri, non soltanto dibattito. Tutti convocati. Senti, c'è il professor Alessandro Vocalelli in linea. Pierluigi. Ciao, come va? Ciao, buongiorno a tutti. Tu non sei ancora in Brasile, no? Alessandro? No, io sono qui che sto ascoltando i racconti brasiliani con grande interesse. Mandiamo avanti Pardo, che a noi ci viene da ridere. Senti, no, a parte il fatto che i brasiliani, diceva Pardo, polemiche perché la nazionale non sta andando bene, però loro hanno già detto: oh, questo mondiale lo vinciamo noi. Noi invece diciamo: bah, magari arriviamo ai quarti, potrebbe già essere un buon risultato. Questa è una grande differenza tra noi e loro. Sebbene, se contiamo i titoli, la differenza vera la facciano solo quei rigori di Pasadena, no? Non capirò mai perché ci si debba nascondere tutte le volte. Ma anzi, il nostro CT è stato anche abbastanza chiaro, abbastanza spavaldo, dicendo che l'Italia arriva in finale, per cui secondo me andando anche al di là di quelle che sono le reali possibilità, però mi piace più chi fa sfoggio, diciamo, di certezze, non di presunzione, di spavalderia, però insomma di convinzione, di quelli che si nascondono sempre, per cui... Certo. Per cui lo vinciamo facile, dai, su, lo vinciamo facile. Si gioca per il secondo posto. Per questo io adoro Pardo. Adoro Pardo. Chi verrà in finale con noi? Chi verrà in finale a prenderle con noi? Esatto. Secondo me c'è una squadra favoritissima che è la Germania, proprio. Ah, bravissimo, sono d'accordissimo con te. L'ho detto molte volte, direttore. Germania per me è la vera grande favorita. Questo mi conforta, vuol dire che ho qualche conoscenza, però sono io che la penso come te, io credo che la Germania sia la squadra più forte, però poi stiamo a vedere. Allora, no, ma anche perché è praticamente all'apice di un ciclo, no? Quell'europeo under 21, una squadra in costante crescita, e un europeo comunque giocato a protagonista, una squadra di grande fisico e talento, mi sembra al punto di maturità perfetto per vincere questo mondiale, mentre la Spagna al contrario, cioè, mi sembra una squadra fase galante, bravo. È vero. Sì, la sensazione è questa, però devo anche dire che io metto Brasile, Spagna e Germania in una pole position a 3 e poi subito dietro l'Argentina. Anche la Spagna metti? Sì, ragazzi, che vincono sempre loro, cioè non è che è come negli anni 90 la battuta famosa di Lineker sul calcio, che è un gioco 11 contro 11 in cui alla fine vincono i tedeschi, in quel periodo vincevano sempre i tedeschi. Adesso come fai a non mettere la Spagna? Sì, ha perso la Confederations Cup l'anno scorso, ma la Confederations Cup non conta nulla, l'aveva persa pure in Sudafrica uscendo contro gli Stati Uniti. Sicuramente meglio la Spagna dell'Argentina? Ma no, io ti dico che per me la Spagna, cioè una squadra che ha vinto gli ultimi due europei e l'ultimo mondiale, come fai a non metterla come favorita? Sicuramente poi a un certo punto per la statistica, cioè è vero la sensazione che sia una squadra che in alcuni leader tecnici ha perso qualcosa, questo è evidente, cioè Xavi e Iniesta non sono quelli di 4 anni fa, su questo non ci sono dubbi, però lo specchio della Spagna è Barcellona. Se giochi regolari, il cammino dell'Italia va avanti, e ce l'auguriamo. A giochi regolari mi sembra di capire che ai quarti di finale o troviamo il Brasile o troviamo la Spagna, no? Esatto. E beh, io francamente metto 10 firme per trovare la Spagna. Anch'io direttore, ma poi se vogliamo essere spavaldi saranno problemi loro. Sì, no, ma invece di tergiversare, allora, Rossi a casa, Destro a casa, che si dice abbia gradito questa esclusione, poi lui ha detto no, non è vero, che ho rifiutato di andare a fare la riserva, il 25esimo, eccetera, eccetera. Questi sono i grandi temi. Romulo si è autoescluso, Montolivo sta fuori 6 mesi, Verratti potrebbe trasformarsi da trentesimo e probabile escluso della rosa iniziale a titolare addirittura. Insigne, l'ho detto prima, è una scelta che nessuno si sarebbe aspettato, potrebbe essere anche il turista del caso. Alessandro. Guarda, io noto una grande accondiscendenza nei confronti del commissario tecnico, che mi sembra l'unico commissario tecnico della storia recente e non dell'Italia che è accompagnato da tutta questa disponibilità, perché furono criticati Lippi, Sacchi, Trapattoni, Bearzotti, nei confronti di Prandelli qualsiasi cosa fa va bene. Allora, fermo restando che ha tutta la nostra stima e simpatia, però io francamente non condivido nulla di quello che ha fatto negli ultimi 3 mesi, ma non nel fatto che ha lasciato a casa Rossi, e io francamente Rossi l'avrei portato, perché mi sembra che comunque la variante, che se poi migliore cresce, è quello veramente che ti può dare un valore aggiunto. Ma trovo altre cose sorprendenti, trovo che praticamente Verratti è stato scoperto e promosso dopo quest'ultima amichevole. Cioè, Verratti è stato il miglior calciatore italiano di questa stagione, eppure ha dovuto aspettare l'ultima amichevole per sentire un po' più di fiducia e di considerazione. E vedo che andiamo a questi mondiali con ancora l'incognita, bellissima incognita, ma incognita Balotelli, che pure da un anno che non gioca bene, e però nel frattempo non abbiamo provato nessuna alternativa, cioè l'alternativa è Immobile, che non vorrei dire una sciocchezza, ha fatto 2 presenze in nazionale, cioè mentre Balotelli andava sempre male, Immobile andava sempre bene, non ce ne siamo accorti, non l'abbiamo provato mai, sì, abbiamo provato Gilardino, Osvaldo, eccetera, eccetera. Ecco, cioè, mi sembra che francamente ci sarebbe un parecchio da dire, però dato che poi ormai siamo in clima, siamo pure tutti no, mi pare comunque, l'ho detto prima con Pierluigi, con queste scelte al capitolo attaccanti Prandelli abbia stabilito delle gerarchie precise: Balotelli, Cassano titolare, Immobile, Cerci backup, pronti ad entrare a seconda delle esigenze, e dicevo Insigne, Jolly o turista, giocatelo come vuoi, non ha fatto una bella stagione Insigne, dai, diciamoci la verità, no, 3 gol in tutto il campionato, 51 partite. Non ha fatto una bella stagione, ha segnato pochissimo in campionato. Riparo però, scusami Pier, queste scelte al riparo da ogni polemica, perché è chiaro che portare uno come Rossi avrebbe trascinato con sé il carrozzone dell'opinione pubblica, e gioca, quando gioca come sta e perché non gioca, già c'è Cassano per questo, 2 ha pensato Prandelli, magari sono troppi. Sì, io direi che al di là del fatto che si possano criticare le scelte di Prandelli, sicuramente non sono state scelte popolari, su questo non ci sono dubbi, cioè se lui voleva giocare semplice e non rischiare il consenso faceva cose diverse. Mi sembra che questa volta abbia fatto le scelte sorprendenti, ieri ho twittato che noi cronisti sportivi ormai siamo come i sondaggisti politici, nel senso che erano giorni che leggevamo 100%, Insigne 5%, Parolo fuori, Aguilani, ma figurati, eccetera. Poi alla fine è successo praticamente il contrario. Quindi stavolta facciamo un po' di autocritica anche noi, evidentemente. Ma no, qui la sorpresa l'ha fatta sicuramente Prandelli. Ecco, io dal punto di vista dell'onestà intellettuale mi sento proprio di difenderlo, nel senso che comunque ha fatto delle scelte che lo possono solo esporre rischi. Insigne, da quello che si sa, non è che sia un suo cocco, un suo protetto, un suo fedelissimo, probabilmente lo era di più Giuseppe Rossi. Guarda, secondo me ci può essere una chiave tattica, cioè la mia sensazione è che si stia virando su un modulo un po' più aperto, dove per aperto intendo con gli esterni. Io ho la sensazione che ci possa essere spazio, magari come subordinata, per delle soluzioni tipo 4-2-3-1 o 4-3-3. E allora Insigne chiaramente è un giocatore che da attaccante esterno può fare un certo tipo di lavoro. C'è Cerci con quelle caratteristiche, c'è Candreva che ha caratteristiche un pochino più difensive, ma comunque abbastanza simili. E questa è l'unica, l'unica valutazione, perché poi per il resto, insomma, vabbè, la scelta di Rossi era una scelta, io addirittura avevo detto che mi sembrava possibile che fosse, che diventasse 5 attaccanti, 6, quasi una specie di fil rouge, no? Di bonus dato a Rossi, perché uno come lui, se sta bene, lo devi portare. Sì. Che ti devo dire? Poi è arrivato il tweet di Rossi che dice: guardatevi testa. Sì, no, ma abbiamo aperto con questo tweet il nostro programma, abbiamo aperto parlando con Federico Pastorello, che dice: oh, massima sorpresa per tutti noi, per chi lo conosce bene. Questo tweet, con questo tweet Rossi è stato perfetto, perché ha sgombrato il campo senza nascondersi da ogni possibile equivoco. Allora, io sto bene, guardate i test fisici, non mi fate ridere, ho paura dei contrasti, non mi fate nemmeno ridere. Ho l'impressione, quasi, giro ad Alessandro Vocarelli, che l'amichevole dell'altra sera sia stata, e l'ho detto prima anche a Pastorello, sia stata quasi pretestuosa, cioè che la decisione fosse stata presa prima e a monte e non ora. Però dice una cosa di una certa gravità, detta con tono molto elegante, però se la decisione fosse stata presa prima e dopo un mese che Giuseppe Rossi fa questo tour de force e tu lo metti in campo, tra l'altro con una formazione sperimentale, quindi con nelle peggiori condizioni per poter fare bene, sarebbe grave. Se fosse che tu lo bocci semplicemente per questi 70 minuti contro l'Irlanda, sarebbe grave altrettanto. Ripeto, io non voglio fare la storia del calcio, però per dire, Totti è stato portato ai mondiali con un infortunio più doloroso, con un recupero più complicato e più laborioso, eppure uno ci credeva e l'ha portato. Allora voglio dire, Giuseppe Rossi, tra l'altro, mancano ancora, noi perché ci sentiamo giustamente, mancano 12 giorni alla prima partita, mancano 12 giorni, che è generalmente il tempo per cui ormai le squadre di Serie A fanno un ritiro precampionato, perché ormai i ritiri precampionati non durano più mai più di 10-12 giorni. Quindi è tutto questo tempo, poi sperando di andare avanti, eccetera, eccetera, io pensavo che pensavo che lo potessi portare, ma soprattutto mi colpisce, ripeto, il fatto che a questo punto noi andiamo al Mondiale con un punto interrogativo che è Balotelli e con un giocatore, secondo me, che è stato giustissimo portare come Immobile, che però non abbiamo mai provato in nazionale praticamente, due presenze in nazionale così all'ultimo momento, e invece c'era tutto il tempo di provarlo. Perché salva l'onestà intellettuale di Prandelli, ma non è qui che è in dubbio, perché fino a prova contraria siamo tutte brave persone, siamo tutti, ma questo è evidente, ma questo è evidente, si fa per esprimere giudizi, però qualche dubbio io francamente su come è stata gestita poi, diciamo, tra questa fase di avvicinamento continua ad averci. No, ma anche perché poi è vero che ha lasciato a casa tutti quelli che hanno avuto infortuni gravi nell'ultimo periodo, maggio, che ha avuto la storia del pneumotorace, Rossi lo sappiamo, Destro che era, insomma, è rientrato anche lui da un lungo stop, poi ha avuto quella grana delle quattro partite che penso abbiano finito per pesare, perché forse quella brillantezza non l'ha più trovata. Però per Romulo avrebbe fatto un'eccezione, è stato Romulo ad autoescludersi, gli ha detto: mister, sono al 70%, non mi porta, porto uno che sta in piedi. Posso dire una cosa, questa è la storia del calcio sta roba, io adesso poi l'ho letta stamattina, quindi pensavo di essere annebbiato dal fuso orario, ma è una cosa che, cioè, tu fai un ritiro 20 giorni, tra l'altro Romulo era un altro di quelli che i cronisti da Coverciano davano praticamente per certo, addirittura possibile titolare. Proprio per la sua utilità, e poi non vai, perché mi sembra una cosa da matti questa qui. E devo dire che anche su Giuseppe Rossi, insomma, ma poi c'è anche Paletta e Barzagli che sta mica bene, lo so, neanche Balotelli sta benissimo, neanche Balotelli. Noie muscolari, penso che possa essere quasi di buon auspicio che un giocatore a 14 giorni dalla prima, 12 giorni dalla prima partita possa avere qualche guaio muscolare, perché magari vuol dire che ha spinto, che ha caricato, che adesso ovviamente con un lavoro di riscarico potrà trovare la condizione migliore, per cui non sarei troppo preoccupato per Balotelli. Però voglio dire, di problemi e di acciacchi ne abbiamo parecchi, e che vi devo dire, forse sai, Prandelli, c'è questa vecchia storia che noi andiamo bene nelle competizioni solo se sentiamo le polemiche, sì, quindi forse Luigi, la storia di Verratti è emblematica, ma come come può essere che tu arrivi a ridosso del mondiale, addirittura Verratti era in dubbio fino a 5 giorni fa e adesso super promosso, Berratti c'è stato un amichevole contro la Spagna in primavera, non c'era Pirlo e non è stato neanche provato. Ecco, mi sembra che Prandelli sia andato su alcune certezze, alcune convinzioni, diciamo, fino all'ultima curva, e poi al girato l'ultima curva ha cambiato un po' tutto, per cui fuori Girardino, fuori Osvaldo, recuperiamo Verratti che pure non mi ha convinto, dentro Immobile perché continua a segnare, oddio come faccio a non portarlo se questo continua a segnare. Ecco, mi sembra che qualche motivo. Senti direttore, ma tu sei dell'idea, lo scrive oggi Sconcerti, in parte è quello che ha espresso prima Pierluigi Pardo, sei anche tu dell'idea che l'infortunio di Montolivo possa davvero aver cambiato tutto quanto, compresa aver determinato l'esclusione di Rossi per ragioni tattiche, per ragioni di cambio di modulo? Allora, Montolivo, poveretto, ha avuto la peggior tegola potesse capitare a un giocatore alla vigilia di un mondiale, cioè grave infortunio, perdi il mondiale, una roba da ammazzare in cavallo. Però è possibile che Montolivo, reduce tra l'altro da una stagione mediocre secondo me con il Milan, mentre l'anno scorso aveva giocato benissimo, quest'anno ha giocato davvero male, ha giocato un campionato da ragionierino, perché questa è la verità, davvero l'esclusione di Montolivo può aver cambiato tutte le convinzioni di Prandelli? Io ho fatto salvo le opinioni di e penso che se fosse così sarebbe anche questo ulteriormente grave, cioè, ma secondo te se la Spagna perde Iniesta cambia tutto? Cambia anche l'attacco. Va fuori Diego Costa, perché io francamente non credo, anche come dici tu, Montolivo è un giocatore prezioso, che io voglio sempre nella mia squadra, perché uno che può fare l'interno, può fare il trequartista, può fare all'occorrenza anche il centrale di centrocampo, per cui è un giocatore d'utile, grande affidabilità, però insomma pensare che io faccio delle scelte in funzione di Montolivo, allora se toccando d'accordo. Ferro ti saltava Pirlo, ti saltava De Rossi, che piacere, insomma. Per cui no, io francamente sono d'accordissimo, con tutto rispetto e ovviamente con in bocca al lupo per Montolivo, ma insomma non può essere Montolivo, diciamo, il punto di partenza tattico di questa squadra. No, io penso però che ci sia una progressiva mutazione. Del resto, insomma, Prandelli è uno che 2 anni fa cambiò clamorosamente la difesa dopo l'amichevole di Zurigo e cominciò con la difesa a 3. Insomma, da questo punto di vista è un allenatore. Questo può essere anche una dote, può essere anche una qualità più che un difetto. È certamente un allenatore che può cambiare, che ha cambiato, insomma. Poi che su Verratti ci sia insomma il sospetto di una sottovalutazione, che sarebbe colpevole, anche perché Verratti, diciamo, gioca al Paris Saint Germain, non è che gioca, appunto, non lo so, al Genclair Ghibligi o che non lo so, in un club del nord Irlanda. È comunque un giocatore che abbiamo visto 1000 volte sia in Ligue 1 che a livello di Champions League, quindi questo in effetti è abbastanza sospetto. Poi può darsi pure, in realtà, ragazzi, molto più semplicemente che non ci abbiamo capito nulla noi giornalisti, cioè ci può anche stare questa ragione. No, nel senso che è talmente clamorosa questa differenza, è talmente, veramente, una settimana dopo le elezioni con la sorpresa che nessuno si aspettava, mi è sembrata una situazione molto simile, cioè quando mi è arrivato il tweet di Non Rossi, subito ho pensato a destro, ma mi sembrava scelta normale. Più normale, perché per 20 giorni avevamo letto che il ballottaggio era fra Rossi e Destro e Insigne sembrava stesse lì soltanto ad accumulare esperienza per il futuro. Per cui invece abbiamo capito poco. C'è anche Darmian, che nessuno si aspettava forse fino in fondo. Direttore Vocalelli, un'ultima battuta su Cassano. Io ho detto prima, non lo chiedo neanche a Pardo, perché sappiamo che è di parte. No, non sono di parte, dai. Sto a scherzare. Però su Cassano, insomma, dovessi scommettere un euro su un grande mondiale di Cassano, bene, io non sono uno scommettitore, ma lo farei. Per molte ragioni. Io sono di parte invece, mentre è tutto l'anno che vado perorando nel mio piccolissimo la causa di Cassano, perché credo che è stato giusto recuperarlo per questo mondiale. Io penso che sia veramente il giocatore da cui più di tutti dipende forse la fortuna dell'Italia, perché noi continuiamo a inseguire giustamente i gol di Balotelli e speriamo nella forma e nella condizione di Pirlo, però quello che ti può dare Cassano come valore aggiunto non te lo può dare nessun altro, per cui io mi auguro che Cassano possa fare un grande mondiale, rappresentare il nostro giocatore più, però sono scettico su tante altre cose, speriamo che Cassano colmi in positivo tutti i dubbi che mi porta presto. Grazie direttore, a presto voi, Alessandro Vocalelli, ciao. Prandelli come Zeman, nessuno dei due fanno complimenti ai giocatori? No, ma non è che non fanno complimenti, comunque quando c'è da richiamare richiama benissimo, e questo per un giovane o per me che, diciamo, non sono presuntuoso, che non sono uno che se la prende, diciamo è un insegnamento molto importante. Questo era Verratti che ha appena parlato in conferenza stampa. Pierluigi, sentiamo da Pescara, guarda un po', strano, eh? Dario, buongiorno. Pescara, buongiorno. Il Pescara aveva quattro giocatori di questa Pescara nazionale. Capitale, Pescara capitale. Sì. Pronto, buongiorno. Dica. Non vorrei, ecco, sembrare stupido con questa mia affermazione. Io tempo fa volevo intervenire, non sono riuscito. Volevo una nazionale di giovani, visto che comunque sono tutti quasi a fine ciclo, anche lo stesso Pirlo, cioè può fare quest'anno. E allora, visto che le aspettative non sono grandissime, puntiamo su una nazionale di giovani, indipendentemente che sia il tridente del Pescara che abbia fatto magari 60 gol in quella stupenda Serie B, però tanto se le aspettative non sono grandissime, creiamo un ciclo, anche lo stesso Buffon. Ho capito, ma non sono i mondiali, non è dai mondiali, cioè non è giocando un mondiale che si parte per creare un ciclo, Dario. Per creare un ciclo si parte al giorno dopo la fine dei mondiali, eventualmente si utilizzano gli europei come ha fatto Prandelli. Io non sono per una nazionale di giovani, io sono per una nazionale forte. A me porta niente che sono giovani o vecchi, cioè ai mondiali si va, l'Italia deve andare per vincere, per arrivare più lontano possibile, poi che siano giovani o che siano Pirlo, che è l'unico forse sostituibile di questa nazionale, a me importa pochissimo, devo dire la verità. Pierluigi. Sono d'accordo, insomma non è certo il mondiale il momento degli esperimenti, certo. anzi io credo che sia una competizione, e forse una delle armi migliori che abbiamo è proprio questa nostra forza, l'hanno detto Buffon, De Rossi in questi giorni in conferenza stampa, l'esperienza di questa squadra può essere un grande valore aggiunto, soprattutto se passi il girone, poi si ricomincia sempre da 0-0, le partite sono tutte finali, si può giocare per 120 minuti o addirittura andare ai rigori, quindi tutto diventa molto, ancora più legato all'episodio, ancora più legato alla tenuta mentale che hai, e appunto. Per questo secondo me al mondiale invece serve. Poi serve esperienza di queste partite, ma serve esperienza di queste partite. Il mix ce l'abbiamo, prima Vocarelli parlava di Cassano che può accendere la luce, secondo me l'altro giocatore che può accendere la luce sicuramente è Pirlo, poi sicuramente là davanti molto dipende da Balotelli, insomma. Abbiamo sicuramente tanti punti interrogativi, su questo non ci sono dubbi, non è una nazionale dominatrice questa, è una nazionale che ha del talento, che ha una sua solidità molto grande, che ha una sua esperienza, e se le cose si combinano bene, se scatta un certo tipo di chimica, possiamo far molto bene, ma questa è la storia però del nostro calcio, insomma. La nazionale del 2006 non è che fosse una nazionale nata per vincere, no, ma è evidente, ma poi sì, sono cose che si creano strada facendo. A proposito, se volete una maglietta di tutti i convocati autografate, volete venire a ritirarla qui e essere i nostri ospiti per un giorno, mandate un file di un minuto a radio24.it, il nostro sito, trovate tutto, un file audio mp3 di un minuto, la domandona del giorno, quello su cui vi invitiamo a riflettere, a farci sentire il vostro pensiero, è: siete d'accordo con Prandelli? Sì, no, perché? Vediamo se arrivano. 800240024 invece il numero per le chiamate. Senti Pier, ma la Spagna si porta Diego Costa che ha i muscoli a pezzi, nessuno dice nulla, lascia a casa Llorente. La Colombia ha Falcao che si è spaccato un ginocchio ed è fuori da 6 mesi. L'Uruguay ha Suarez che hanno operato di menisco 3 giorni fa. Vidal convocato. La Francia liberica con la lombalgia cronica. Infatti io non mi aspettavo onestamente il no a Rossi a questo punto, non me l'aspettavo, anche perché insomma sinceramente, come diceva Vocarelli, mancano giorni, cioè io sono stato pessimista a lungo purtroppo, perché chiaramente credo che Rossi come pochissimi altri giocatori meritava questo mondiale per quello che ha dato negli ultimi anni, quindi io ero molto pessimista dopo l'infortunio, perché comunque Rossi sappiamo ha una sfiga sto ragazzo incredibile, e poi aveva avuto già tanti problemi, quindi mi sembrava difficile che potesse tornare, ma una volta che torna, che fa tutto la trafila, insomma mi aspettavo che venisse convocato. Detto questo, Prandelli per carità fa bene a questo punto a pensare solo all'interesse della nazionale, sicuramente avrà giudicato alla luce dei test, alla luce delle indicazioni che ha ricevuto, certo è sorprendente, insomma non è che c'è poco da girarci attorno, anche perché a quel punto ci si aspettava comunque Destro, che è un giocatore che quest'anno ha dato un contributo, quelle poche partite che ha fatto. Perché, e che insomma, poi è uno che ha caratteristiche sue, che all'interno di quella, insomma, della rosa degli attaccanti. Però forse la chiave è veramente quella di cercare più un gioco con gli esterni, perché i segnali mi sembra che vadano tutti in quella direzione lì. Giovanni Bari, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per la convocazione. Sto chiamando per confermare quello che voi state dicendo, appunto, che sono abbastanza stupito della non convocazione di Rossi, ma anche quella di Destro mi lascia un po' stupito. Proprio come stavate dicendo voi, che è un giocatore che appunto questa stagione ha fatto molto bene, magari ha mancato le ultime giornate proprio per quella malata in faccia che gli ha tagliato un po' le gambe. Però a questo punto una considerazione un po' da guastatore: che mi dite della convocazione aspettando la bellissima giocata di Balotelli? Cioè, io mi sarei portato Rossi e Destro, e magari infine sono d'accordo con voi che andrà a fare il turista in Brasile. Però a questo punto che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare la grande giocata, quel tiro da fuori di Balotelli, senza avere nemmeno un giocatore d'area come poteva essere Rossi o Destro? Sì, secondo me sì. Tutti convocati. È mio, è seu, hoje è tutto nostro. Quando chiamo il mondo intero pra giocare e pra mostrar che io posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Non importa il risultato, vamos pra massa. Secondo me siamo tra i primi. Ci sono ancora una o due squadre che sono molto forti, ma sinceramente sono loro che devono tenere noi, non noi loro. Ecco. Il borsino del mondiale, che percentuale ti dai? 0,0%. Da me dovete sentire quello che dico, è sempre la verità. Cosa devo dire? 1%, l'1% non ce l'ho. 0%. Il mondiale passa attraverso le prestazioni del Torino. Ogni giocatore credo che debba far bene al proprio club, quindi sogno di andare in Brasile, ma sono consapevole delle mie qualità. Me la gioco al 200%, sono concentrato, sono arrivato carico, voglio dimostrare che quello che ho fatto in campionato non è stato un caso. Sono arrivato qui con la massima voglia di far vedere quello che so fare. Un sogno che tutti i ragazzi che hanno per arrivare in nazionale di disputare un mondiale. Ed ecco gli attaccanti, le loro voci: Balotelli, Cassano col suo 0%, da lì a partito, dichiarazione di inizio anno, mette possibilità di andare ai mondiali, 0,00%, diceva Cassano, bravissimo a trasformarlo in un 100%, anzi in un 10%. Per Luigi Pardo, sai che Cassano avrà il 10, Balotelli il 9, è ufficiale, questi numeri di maglia. È ufficiale, ma sono già usciti sul sito, perché sapevo che erano fra 20 minuti, però insomma, vabbè, questi due sono abbastanza scontati. Sì, ma era 0%, guarda, non era, non, per quello proprio ti assicuro che non era assolutamente pretattica. Fino a marzo devo dare atto a Repubblica. Repubblica è stato il primo giornale nei primi giorni di marzo che scrisse di questa clamorosa svolta di Prandelli, che mi ricordo che quel giorno lì, insomma, abbiamo avuto tutta una serie di gente, di colleghi, che mi chiamavano per sapere se, e mi chiamavano lo stesso Cassano per sapere se cosa ci fosse di vero, quindi devo dire che è stato veramente un colpo di scena abbastanza clamoroso, altri ne sarebbero arrivati. Però guarda, mi pare giusto spendere per questa stagione di Cassano una parola che non avrei mai pensato di utilizzare per lui: ha giocato una stagione di grande serietà. Hai visto? Vero o no? Incredibile, eh? Vero o no? Ma guarda, aveva avuto altre stagioni serie, per esempio a Genova con la Samp sicuramente, poi io trovo che negli ultimi anni la sua carriera è stata una carriera molto più regolare di quello che di quello che sembra all'esterno, sì. E al tempo stesso trovo anche che in certe cose invece secondo me abbia cominciato a soffrire, come per esempio nei calci di rigore dove ha sbagliato spesso ultimamente, di errori che nel passato non faceva. Cioè secondo me negli ultimi anni lui ha perso un filo di imprevedibilità e ha guadagnato complessivamente nella regolarità di rendimento. Le uniche polemiche degli ultimi anni, insomma, da Genova in poi non c'è una polemica che non sia fuori dal campo. Cioè, certo. È chiaro che le dichiarazioni contro Galliani quando sei andato al Milan hanno fatto male, e sicuramente, insomma, però poi alla fine dal punto di vista del rendimento sicuramente non è stato sempre eccezionale, anzi alcune volte è anche finito in panchina, ti ricordi? L'unica parentesi difficile di questa stagione al Parma è stato quel mese di gennaio in panchina. Era un po' una dinamica di mercato, c'era stato un interessamento vero della Samp, dai, non ci prendiamo in giro. Poi Mihajlovic ha cambiato idea, ha voluto un attaccante, ha voluto una prima punta, diciamo, ha scelto una prima punta e quindi un po' più fisica, e quindi Cassano non è arrivato, insomma. Allora, rispondiamo ad Antonio da Bologna, Pierluigi, poi ti lascio andare. Senti, voglio chiederti questo invece, una mia curiosità, dato che la prima impressione spesso è quella che conta, che impressione ti ha fatto il Brasile? Che facce vedi in giro? Più felici o più preoccupate? Guarda, devo essere onesto, cioè, qui sono le 10 di mattina e sono venuto in albergo, quindi ho visto la faccia di quella della colazione e di quella della reception. Non fanno testa, campione è un campione troppo poco esaustivo. Domani ti dico tutto perché domani avremo già girato un po' per, sì. Adesso fra un paio d'ore arriva la troupe e quindi cominciamo a girare per Rio. Mi ricordo quelle dell'anno scorso, che erano facce imprevedibilmente per quella che è la immagine storica, molto preoccupate, molto arrabbiate di una contestazione feroce che chiaramente era diciamo stimolata da certe frange estreme radicali, però che era condivisa da buona parte della società brasiliana, perché insomma anche il ceto medio, anche magari persone un pochino più in avanti con l'età, però insomma avevamo fatto un po' di inchieste l'anno scorso e il livello di popolarità di Gilma era bassissimo, la sensazione che questi soldi siano stati spesi male e che ci siano pochi investimenti per strade, infrastrutture, ospedali, scuole, e investimenti invece soltanto per gli stadi e per il mondiale, è una sensazione Non dobbiamo dimenticare il percorso storico di questi mondiali. Quando vennero assegnati al Brasile, il Brasile era un paese che stava esplodendo dal punto di vista economico, e poi c'è stata una bruschissima frenata nel momento in cui ha dovuto comunque spendere, organizzare, costruire, eccetera, eccetera. Quindi il Brasile che era quando i mondiali sono stati assegnati non è il Brasile di oggi, questo non dobbiamo dimenticarlo. E c'è ancora l'Olimpiade del 2016, quindi è veramente un flusso di eventi, però insomma tutto questo in un paese così calciofilo, no, magari ci poteva essere la sensazione o l'illusione, se vuoi, che la passione smodata coprisse che questo popolo ha potesse coprire, invece no. Poi è difficile stabilire il giusto e lo sbagliato, perché da un lato chiaramente uno vuole no tafferugli, no disordine, per carità, assolutamente nessuna violenza, ma dall'altra poi ti fai anche delle domande, insomma, se ci sono dei motivi veri per cui questa gente deve protestare e la Coppa del Mondo può diventare una vetrina, insomma, chi siamo noi? No, ma infatti... È giusto che il mondiale o l'Olimpiade possa diventare comunque anche un terreno di confronto, ovviamente non violento, però un terreno di confronto sui problemi, perché io non accetto i discorsi è Olimpiade sport, allora tutto il resto non deve entrare, sta fuori dalla porta, come è successo con Putin per le Olimpiadi di Sochi, eccetera eccetera. No, invece è un palcoscenico mondiale ed è giusto anche che sia un terreno di confronto per sottoporre eventualmente al mondo che sta guardando quali problemi esistono. Io la trovo una dinamica ineccepibile questa. No, ma assolutamente. Del resto voglio dire, il calcio è business, il calcio è tutto, è business, è cultura, è passione, è letteratura, è anche politica ovviamente a ogni livello, è politica nel senso di affari, investimenti e quindi economia, e diventa anche politica nella legittima possibilità delle persone di manifestare, di utilizzare questo tipo di vetrina per portare davanti al mondo i propri problemi. Ma l'anno scorso fu abbastanza strano, perché tutto nacque in maniera però abbastanza casuale, a un paio di giorni dall'inizio della Confederations Cup, con l'innalzamento dei prezzi dei biglietti degli autobus a San Paolo, e da lì divampò un una protesta incredibile in giro per tutto il Brasile, che portò in un famoso giovedì addirittura a interrogarsi sulla possibilità di andare avanti con la Confederations Cup e con l'assalto ai palazzi della politica. Insomma, sono successe cose l'anno scorso, è come se ci fosse stato veramente Palazzo Chigi, il Senato, la Camera invasi, sono successe delle cose di una gravità inaudita 12 mesi fa, per cui insomma la grande attenzione che ci sarà anche da questo punto di vista credo che è giustificata. Pier, grazie, ci sentiamo domani, Senz'altro, fa bravo. Sì, tranquillo, già ho detto ieri, è tutto a posto. Ciao Pierluigi. Allora, numero 20 a paletta, numero 20 azzurro, che qualcosa insomma ci ricorda, andrà sulle spalle di Paletta. Antonio Bologna, buongiorno, poi c'è Andrea da Pescara, Enzo da Taranto, 800240024, poi voglio farvi ascoltare anche qualche voce, abbiamo sentito prima in diretta quella di Aru, voglio farvi sentire più tardi qualche voce di altri protagonisti di questo weekend di sport. Antonio, buongiorno, dica. Buongiorno, grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Sì, Antonio da Bologna, ma Salentino e Juventino. Comunque volevo soltanto sottolineare una mia impressione. Secondo me Prandelli, più che aver avuto meno fiducia nei confronti di Rossi, secondo me c'era meno fiducia nei confronti di Barotelli. Secondo me ha intenzione di cambiare modulo, ha portato un po' più di esterni, perché secondo me si vorrà affidare a un centravanti di ruolo tipo Immobile. Secondo me sta venendo meno un po' di fiducia nei confronti di Balotelli. Questa è la mia opinione, la mia impressione. Poi magari il campo spero ci smentisca, perché spero che Balotelli prima o poi ci dimostri veramente tutto il clamore, che abbia veramente un senso anche calcistico, perché per adesso ne ho visto poco, anche se ho capito che la sua opinione è ben diversa. Comunque sì, questa era la mia. Me, ma certo, fa benissimo a raccontarcela e a tenersela. La mia è diversa perché io credo che sia il giocatore di maggior talento tra tutti quelli che abbiamo, certamente l'attaccante di maggior talento tra tutti quelli che abbiamo. E se andremo da qualche parte in questo mondiale, terminando la risposta secca che ho dato all'ascoltatore di prima, ci andremo sulla scorta dei gol di Barotelli. Io sono convinto di questo. Esploderà, è quello che ci auguriamo tutti. Ma se io credo che per lui questo sia davvero un ambiente speciale e particolare, cioè quello azzurro, quello della nazionale. Lì ha sempre fatto le cose migliori e lì, in fondo, di Casini, quanti ne ha piantati? Io non me ne ricordo. Tutti convocati. Ma addirittura pensavo che non ce la facevo uscire dalla scia a vincere. Eppure, mamma mia, comunque no, è stata una gara fantastica, anche la moto era a posto, era perfetta, e a parte il problemino al cambio che da gli ultimi 5-6 giri quando sono andati indietro, quindi no, comunque dai, è stata una bellissima gara, era importante ridurre il gap con Miller e perfetto. Sono contento perché è il terzo podio di fila e soprattutto perché è tornato sul podio a Mugello dopo 5 anni, e vedere tutta la gente sotto il podio è sempre emozionante. Da più anni che non ci vai, e più ci si emoziona, perché era dal 2009, quindi una vita fa, e poi è passato attraverso tanti infortuni, gli anni con la Ducati che sono stati difficili, quindi ritornare quest'anno è stata una bella soddisfazione. Questa è fatto più fatica, però la verità è che è stata la gara più difficile di l'anno di vincerla, perché abbiamo fatto tanta fatica soprattutto all'inizio per andare dietro Jorge, ma comunque abbiamo fatto un bel setup, specialmente con la sesta marcia, per qual rettilineo per sorpassare con le slip, mi è andato molto bene, e sono tanto contento per questo, ma anche dai, penso che è stato un bel spettacolo. Allora, queste voci dal Mugello, dove ieri abbiamo visto un weekend molto bello per quanto riguarda Moto3. Abbiamo sentito la prima voce, abbiamo sentito quella di Romano Fenati, che ha vinto ancora, poi con quella moto faceva insomma effetto, no? Normalmente livrea nera, ieri livrea di colore per la moto e per la tuta di Romano Fenati, per appassionati appunto di bandiere e di simboli. Comunque così era, molto bella quella moto. Fenati che ha vinto ancora in Moto3. E poi in MotoGP abbiamo sentito Valentino Rossi ieri terzo, una gara tutta a rincorrere, partiva decimo eccetera eccetera. E poi Marquez, dove sta la notizia? Sta nel fatto che ha superato Lorenzo all'ultimo giro? Io non credo, ormai ho quasi la sensazione che questo giochi al gatto con il topo, sensazione che nessuno riesce a togliermi. Intanto vi do una notizia di stretta cronaca, perché c'è in campo a Parigi Sara Errani contro Jelena Jankovic, quindi partita durissima per Sara, che però è 6-6 nel primo set, dunque pienamente in partita. Andrea da Pescara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Genta, io volevo soltanto dire questo: è arrivato il mondiale, abbiamo Balotelli, abbiamo Cassano, abbiamo Immobile, Insigne e l'Italia, Berratti e l'Italia, dobbiamo tutti quanti tifare insieme, urlare Forza Italia e speriamo che questi ragazzi ci diano una gioia. Sì, beh certo, ma, però sì. Come lei ben sa, spesso prevalgono le logiche di partito, no? A seconda del tifo che uno fa. Ah no, ma cosa dici? Immobile ha giocato, Insigne ha giocato una stagione meravigliosa. Ma ha scritto prima qualcuno, tifoso del Napoli, dichiaratamente: una stagione meravigliosa, attaccante, 51 partite, 3 gol. Certamente ha corso molto, certamente è migliorato dal punto di vista tattico, possiamo dire un sacco di belle cose, però i numeri sono questi. Insomma, io credo che neanche i più feroci tifosi del Napoli sarebbero aspettati Insigne ai mondiali. Se dicono così, lo dicono esclusivamente per tifo oppure perché dicono una bugia. Questo è il mio parere. Prima di andare a Taranto da Enzo, vi faccio sentire un'altra voce della domenica dello sport, che è quella di Meo Sacchetti, allenatore di Sassari, a proposito del grande momento dello sport sardo. Prima Aro, adesso Sacchetti, che ieri con la Dinamo Sassari ha sbancato Milano, playoff del basket, semifinale, gara 2, ora 1-1 tra Milano, favoritissima, e Sassari, e si va a giocare in Sardegna. Audio non perfetto, ma comunque avrete intuito, se non sentito, Meo Sacchetti, abbiamo cambiato faccia, abbiamo difeso meglio, e poi onestamente Sassari ieri ha sempre fatto canestro, è quello che conta nella palla canestro. Comunque 1-1 in questa serie e Milano di nuovo in difficoltà dopo le 5 partite contro Pistoia, anche in questa serie contro Sassari perde il fattore campo. Enzo da Taranto, buongiorno. Buongiorno, dica. Grazie di avermi convocato. Grazie a lei. Volevo dire una cosa, ma l'Italia, no? Io ho visto le ultime partite, ma non vedete com'è pallosa quando gioca, con quei passaggi sembra l'indietro, o Bonucci che fa quei lanci che neanche a rugby fa i lanci che fa lui. Cioè, dove va l'Italia con questa nazionale? Io non la vedo così forte. Questo volevo sapere. Sì, ma io non la vedo nemmeno così debole, insomma le ultime partite sono state... Scusami, perché fanno sempre quei passaggi all'indietro, non si gioca mai in avanti, sempre all'indietro passano la palla. Passano la palla... Però che fa qualche lancio, ma... Io credo che le ultime partite non siano state particolarmente indicative, sempre all'indietro, sempre in avanti. Uno dei problemi veri di questa nazionale è quello della tenuta fisica. E questo lo sappiamo, perché in Italia si gioca un calcio molto particolare, questo l'ha sottolineato con forza Prandelli dopo l'amichevole con la Spagna, dove pure non avevamo fatto una brutta figura, un passaggio indietro e avanti non lo so, però non avevamo fatto una brutta figura. Il nodo è quello della tenuta fisica. Sappiamo bene come il mondiale arrivi a quest'ora della stagione, tutte le squadre sono spremute, tutte le squadre si portano dietro un sacco di acciaccati e di infortunati. Facevo prima l'elenco quantomeno delle superstar con maggiori problemi in questo mondiale. Tra le altre cose c'è Diego Costa che spende fiducia dicendo: sarò pronto per la nazionale spagnola fin dalla prima partita. Io i miei dubbi ce li ho e me li tengo, anche perché ha avuto un infortunio muscolare serio, che chiaramente non ha risolto, che potrebbe aver anche invece vagamente peggiorato la sua partecipazione, sebbene la sua comparsata alla finale di Champions League. Però i tempi di recupero di infortuni muscolari di questo tipo sono fisiologici e richiedono ben più di una settimana o di 10 giorni. Quanto al resto non vedo molte altre nazionali enormemente superiori alla nostra. Ad esempio questa edizione del Brasile, che parte col dichiarato intento di di vincere il mondiale senza dubbio alcuno, perché questo lo dicono tutti a partire da Scolari. Questa edizione del Brasile a me sembra particolarmente discutibile o rivedibile e certamente molto povera di talento. Allora sentiamo chi è il migliore in campo di oggi, poi magari facciamo il tempo anche a parlare con un altro ascoltatore, magari. Tanto quello di oggi, il migliore in campo di oggi è Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a lei. Dica. A proposito di quanto diceva lei poc'anzi, Insigne andrà a fare il turista al mondiale, io voglio dare un consiglio spassionato a Lorenzo, proprio come se fosse mio fratello, visto che sono napoletano, gli dico: caro Lorenzo, spegni i social, non ascoltare la radio, spegni la TV, non leggere i giornali, al limite proprio se hai la passione per la lettura, leggi un bel romanzo, non so, qui tutto da dire. Memorie del sottosuolo, un bel romanzo, ma non accendi solo una cosa, il tuo talento, il tuo cuore, e vedi che questo qui sarà il tuo mondiale. Forza Lorenzo Insigne, forza Italia. Ma grande, nostro ascoltatore, forza Lorenzo Insigne, forza Italia, spegni tutto, la radio no, perché tutti convocati ogni giorno, anche nel periodo dei mondiali, mi raccomando siamo qui, anzi ne approfitto per dirvi che proprio nel periodo dei mondiali avremo un ulteriore appuntamento speciale che sarà il sabato pomeriggio dalle 5 alle 6, la domenica come sempre dalle 5 alle 7 con Giovanni Capuano, e poi ragazzi siamo qui tutti i giorni, dalle 14 alle 16 a parlare con voi e per voi. Ho l'impressione invece che i mondiali in Qatar non li vedremo, perché vabbè, da un paio di giorni sta girando questa notizia. Il mondiale è stato comprato con un sacco di mazzette, strano, notiziona, chi se l'aspettava questa, che c'è un enorme giro di corruzione intorno all'assegnazione dei mondiali in Qatar nel 2020, ma va, siamo tutti basiti, invece no, sul serio, mondiali a rischio, vengono avanzate di nuovo altre candidature su tutte quelle dell'Australia, e io potrei anche azzardarmi a scommettere con voi, anche se non sono uno scommettitore, che quei mondiali in Qatar non si faranno. Ma lo scopriremo vivendo, manca un sacco di tempo. Alessandro da Firenze, buongiorno. Ciao, buonasera e grazie per avermi convocato. Io, come tifoso viola, da una parte sono anche contento perché almeno Rossi si prepara per la Fiorentina. Come tifoso italiano invece sono dispiaciuto, perché sinceramente, anche se diciamo non era tanto che ritornava a giocare a pallone, in qualsiasi momento poteva risolvere la partita, anche perché Prandelli ultimamente con le sue decisioni ci stupisce, prima con il codice etico e poi ti porta dei giocatori bravissimi, forti, però che in campo rischiano due falli e si butta fuori, tipo Cassano e Balotelli. E poi io ritengo Prandelli bravissima persona, un grande allenatore, ma non vincente, come non ha mai vinto nulla a Firenze, come secondo me continuerà a fare purtroppo anche in nazionale. Però insomma, la prima grande competizione di Prandelli, è vero che non ha vinto, però finale agli europei, insomma, con uno splendido europeo come quello che l'Italia ha fatto, se misuriamo tutto con i titoli, come direbbe Mourinho, lei ha ragione. Però non è solo su queste cose che si costruisce la reputazione di un commissario tecnico. Vabbè, aggiorniamo la seduta. Domani, ore 14, Balotelli tutti è... Sì, Balotelli è un gran giocatore, secondo me, datemi retta. So che non lo farete, ma avremo tempo per discutere anche di questo. Franco Piantini, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.